Siamo alla nostra 36esima tappa nel centenario di Pio X, percorso che abbiamo iniziato lo scorso settembre, che ci accompagnerà anche nelle prossime settimane. Come dicevamo anche nelle puntate scorse, il calendario ora si infittisce, le iniziative per quest'anno centenario. In particolare oggi parliamo delle iniziative che si svolgono a Salzano, che fu la seconda parrocchia per Don Giuseppe Sarto dopo gli anni da cappellano a Tombolo. Gli anni appunto da parroco a Salzano e qui molte sono le celebrazioni, c'è un museo adiacente alla chiesa appunto a lui dedicato, che è anche il sito ufficiale museosanpiox.it. Venerdì scorso c'è stato un primo incontro con il confronto tra il professor Giampaolo Romanato, che ha pubblicato recentemente il volume Pio X alle origini del cattolicesimo contemporaneo, e Quirino Bortolato, che è collaboratore dell'archivio storico della parrocchia di Salzano, esperto di storia locale, che ha scoperto alcuni documenti inediti o poco conosciuti degli 8 anni di Don Giuseppe Sarto a Salzano. Bortolato lo sentiremo nelle prossime puntate. Oggi invece anticipiamo alcuni contenuti dell'incontro che si svolgerà venerdì alle 21, ingresso libero, nella filanda Romanin Yakur, dove si svolgono anche per i venerdì successivi altri interessanti incontri promossi appunto dalla parrocchia, dal comune e dal museo San Pio X. Il prossimo incontro, venerdì 13, giorno di Sant'Antonio, alle 21, è con il professor Enzo Pace, docente di sociologia delle religioni all'Università di Padova. Il tema su cui interverrà è fratello, amico o nemico, possibili percorsi dalla diffidenza all'accoglienza. Questo perché Papa Pio X fu in qualche modo precursore dell'ecumenismo. Sì, è un ecumenismo, come dire, ancora embrionale, non ancora completamente sbocciato. Sarà il Concilio Vaticano II che riprenderà alcune sue idee e aprirà una lunga, complessa stagione di dialogo ecumenico e anche interreligioso, perché c'è anche questo aspetto che sottolineo del rapporto complesso fra la Chiesa Cattolica e con l'ebraismo, che appunto soprattutto da Paolo VI, poi con un'accelerazione con Giovanni Paolo II e l'attuale Papa, questa porta aperta verso gli ebrei ormai non si chiuderà più, e si spera almeno. E l'importanza dunque di questa, questo tornare indietro alla figura di Papa Sarto e guardare all'oggi vuol dire appunto che se le due grandi religioni molto vicine, perché Gesù di Nazareth aveva una matrice ebraica, quindi riconoscere queste matrici comuni può voler dire dare una mano a popoli che nel mondo contemporaneo magari sono divisi per ragioni politiche, ma forse potrebbero riconciliarsi riconoscendo le radici religiose e spirituali comuni. Certo, adesso nel 2014 ci sono percorsi di dialogo, di avvicinamento, ci sono però ancora molti conflitti. 100 anni fa o poco più, ai tempi di Sarto, la situazione com'era? Ma la situazione era, come dire, non c'era certo all'orizzonte questa costruzione che ormai nell'Occidente c'è, che l'Islam sia un pericoloso antagonista. Non c'era evidentemente ancora questo passaggio drammatico che le società musulmane vivono in un mondo contemporaneo, dilaniate al loro interno da conflitti violenti, ideologici e politici, e quindi questo capitolo delicatissimo che oggi abbiamo davanti agli occhi, ai tempi di Papa Sarto non ancora erano evidentemente capitoli leggibili, c'era ancora una dominazione coloniale, c'erano protettorati, questo mondo era controllato dalle potenze europee. Quando si è liberato, come dire, ha cominciato un processo lunghissimo di revisione della propria storia e dei rapporti fra politica e religione. Nello specifico, Don Giuseppe Sarto a Salzano ebbe i rapporti con la famiglia Romanin-Yacur e lei sì. Proprio come negli sì. Altri incontri, proprio alla Filanda Romanin farà il suo intervento. Sì, sì. È un rapporto particolare o che possiamo definire normale? Ma io penso che fosse un rapporto normale che oggi possiamo, con gli occhi dell'oggi, diciamo, rivedere come un gesto diciamo pastorale, di attenzione a realtà locali, che però Papa Sarto sapeva benissimo che questa persona, questa famiglia rappresentava appunto una religione, l'ebraismo, e ai suoi tempi non era che ufficialmente fosse riconosciuta come un interlocutore del dialogo interreligioso, per cui in questo senso ha compiuto un piccolo gesto di apertura cristiana. Sì, tra l'altro ancora nella liturgia all'epoca gli ebrei erano definiti gli omicidi di Dio, no? Prima del Concilio Vaticano II. Perfidi sì, ebrei, sì. A suo parere, a 100 anni di distanza, in quest'anno centenario, quali altri aspetti significativi dell'opera di Pio X o Don Giuseppe Sarto possiamo ricordare? Non sono specialista di Papa Sarto, però appunto ho guardato più questi elementi, che sono piccoli gesti, piccoli passi che vanno verso la direzione del dialogo, per cui su questo direi che Papa Sarto ha dato testimonianza significativa. Il professor Enzo Pace, docente di sociologia delle religioni all'Università di Padova, che venerdì sera alla Filanda Romanin e Yacur di Salzano alle 21 interverrà sul tema fratello, amico, nemico, possibili percorsi dalla diffidenza all'accoglienza. Il secondo appuntamento del ciclo di incontri promossi a Salzano dal comune e dalla parrocchia per questo anno centenario. Si proseguirà poi venerdì 20 con Rosi Bindi, presidente della commissione antimafia, sul tema la politica come servizio alla collettività, oggi ancora possibile. Venerdì 27 il presidente della comunità di Sant'Egidio, il professor Marco Impagliazzo, sul tema cittadini e le povertà, nuovi orizzonti di coscienza civica e di impegno, e anche qui la figura di Sarto offrirà spunti preziosi. Per chiudere poi giovedì 3 luglio, quindi questo è l'unico appuntamento di giovedì e non di venerdì, con Don Flavio Dalla Vecchia, docente di Sacra Scrittura all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, sul tema trasmettere la fede ai giovani. E a proposito di giovani, sabato 14 c'è un appuntamento importante proprio a Riese, Pio X, il paese natale di Papa Sarto. Here Comes the Sun, titolo che ci ricorda una famosa canzone dei Beatles, ma che richiama al gruppo vicentino The Sun, che si esibiranno nel loro concerto elettrico, ingresso libero alle 21 sabato sera nel parco di Villa Eger, sede municipale. Ma già nel pomeriggio la parrocchia di Riese presenterà attività e workshop per giovani e giovanissimi dalle 14 alle 18. Musica e spettacolo dalle 18 alle 21, poi il concerto dei The Sun, a seguire poi c'è la partita dei mondiali Italia-Inghilterra che si potrà vedere insieme sempre al parco di Villa Eger. Insieme torniamo a splendere sabato 14 alle 21, il concerto dei The Sun, ma tutto il pomeriggio insieme tra musica e giovani.